Di nuovo in diretta con la nostra sigla, la Via del Teatro on Broadway, con George Benson che apre questo doppio appuntamento a Bologna, estate 2024. Tanto e tante emozioni. Abbiamo seguito dalla prima edizione Zed, Festival Internazionale di Videodanza. In questa prima parte, dal 3 al 7 luglio, primo atto, abbiamo due palcoscenici di grande intensità e bellezza. Il Mambo, in via Don Giovanni Minzoni, che conosciamo, il Museo di Arte Moderna di Bologna, e Le Serre dei Giardini Margherita. Allora, intanto alcuni aspetti e particolarità. Avremo anche un'anteprima mercoledì 26 giugno dalle 18 alle Serre dei Giardini Margherita. Cos'è Zed? Ne parleremo in maniera più dettagliata col direttore artistico Mario Coccetti, che finalmente in presenza ha avuto la possibilità di dare anticipazione ai contenuti di Zed. Particolarità di questa rassegna è che con Mario abbiamo sempre avuto conversazioni telefoniche all'alba, per cui finalmente in rassegna e conferenza stampa la possibilità di avere una conversazione per entrambi senza fare una levataccia, mettendo più a suo agio appunto il direttore artistico di Zed, disponibilissimo ai microfoni del Breakfast Club. Zed, Videodanza, già dà l'idea appunto di quello che troveremo, ma i contenuti e l'approfondimento avrà motivo di ulteriore specificità. Ovviamente vi dico 50 artisti internazionali, 5 serate ufficialmente presentate a breve, e dal 3 al 7 luglio in queste due sedi, il Mambo e Le Serre dei Giardini Margherita, il primo di due atti in cui è divisa la sesta edizione di Zed, Festival Internazionale di Videodanza. La curatela è della Compagnia della Quarta, la direzione artistica è di Mario Coccetti. Sentiamo appunto la conversazione avvenuta in un orario non certo mattiniero, e appunto abbiamo avuto la possibilità di dare presentazione tranquilla, ecco, mettiamola così, senza levatacce. Dopo tante conversazioni telefoniche all'alba, finalmente ci vediamo di persona a un orario umano. Siamo pre-conferenza stampa di Zed, sesta edizione, e siamo con Mario Coccetti. Ben trovato! Ciao, buongiorno. Ciao, ma sorpresa bellissima, ti aspettavo al telefono e invece finalmente hai potuto dormire tranquillo, insomma. Ho potuto dormire un po' di più, però finalmente ci siamo anche visti di persona, splendido. Allora, facciamo un esercizio pre-conferenza stampa di presentazione. Linee generali di questa edizione, Mario. Sì, allora, Zed Festival, non so se il pubblico lo conosce già, spero di sì, perché siamo appunto alla sesta edizione. È un festival che concentra la sua attività sulla videodanza e sulla relazione tra corpo danzante e schermo, quindi anche parlando di tutti i nuovi processi creativi legati alla realtà virtuale, alla realtà aumentata e alla realtà mista. La linea che abbiamo scelto quest'anno per il festival è l'interattività. Quindi presentiamo una serie di progetti in cui il pubblico può rapportarsi in maniera diretta con l'opera d'arte e la può anche in un certo senso modificare secondo le proprie aspettative, secondo il percorso che decide di fare. Possibilità anche per oversize come me? Per tutti. La videodanza e la danza XR non ha limiti. Luoghi del festival. Quest'anno siamo di nuovo alle Serre dei Giardini Margherita, che ormai è un luogo che ospita il festival da molti anni, e il Mambo ha confermato la sua presenza. Tra l'altro, Mambo è uno dei luoghi che ha dato poi il via al festival nel 2019, quindi è sempre stato con noi, e ancora il circuito Cinema Bologna, più che altro nella seconda parte del festival, che sarà poi ad ottobre, avremo modo di riparlarne più avanti. Certo. Si inizia ufficialmente il 3 luglio fino al 7 luglio, ma abbiamo una bellissima anteprima il 26 di giugno, quindi tra qualche giorno. dalla prima edizione subito mi sono molto incuriosito e allo stesso tempo, confesso, anche sentito un po' fuori luogo per via dell'aspetto tecnologico, digitale, videodanza, realtà aumentata. E tutto ciò non è esattamente il mio pane quotidiano, come ben sapete. Però avere conversazione, possibilità, poter usufruire, poter fare esperienza con tutto ciò, indubbiamente non solo annulla completamente l'aspetto di scetticismo, ma anche a un dinosauro della tecnologia digitale come il sottoscritto arriva ad avere, perché no, motivo esperienziale che porta a una crescita e a una visione, a quello che è una grande sensazione, qui microsensazione che si trasforma in emozione, in bellezza, in possibilità. Ecco, una possibilità in più che ci viene data per l'estate 2024 è con Zed Festival Internazionale di Videodanza. Allora, ribadisco le parole di Mario. Tra l'altro Mario, disponibilissimo, questo lo dico e lo ripeto e non smetterò mai di ringraziare il direttore artistico del Festival Zed, ha avuto anche modo di mettermi a mio agio dal punto di vista di tutte le nozioni tecnologiche e digitali, di cui anche lui, insomma, ha ammesso: sì, ma guarda che io poi mi occupo di danza, per cui sì, c'è un aspetto di cui si occupano tecnici, è ovvio, e avremo anche modo di conoscerli, però di base è un'espressione artistica e molto molto suggestiva nella sua creatività. Dal 3 al 7 luglio, dalle 18 alle 23:30, quindi una possibilità molto estesa di fruizione. Ricordo e sottolineo che l'ingresso è gratuito. Per info comunque www.zfestival.it. L'anteprima è mercoledì 26 giugno dalle 18 alle Serre dei Giardini Margherita. Protagonisti. Dunque, i protagonisti arrivano, per la maggior parte gli artisti sono inglesi, quest'anno abbiamo un focus molto specifico sull'Inghilterra. Presentiamo un'opera di Bruno Martelli e Ruth Gibson dal titolo Dazzle, un'opera molto molto affascinante perché hanno ripreso una serie di movimenti artistici avanguardistici degli anni 20 e li hanno poi rielaborati in una chiave invece legata al VR. Quindi anche questa opera interattiva, sì, ci troveremo all'interno di una festa negli anni 20 con una serie di sì, esattamente, ma con una rielaborazione visiva, grafica molto molto affascinante e piuttosto insolita. Un secondo appuntamento è quello con Tom Dale, loro appunto anche loro inglesi, una compagnia storica di danza contemporanea che si stanno sperimentando sulla danza in XR, presentano un'opera che si chiama Surge VR, quindi un'edizione in VR di uno spettacolo in live, per la quale poi la protagonista ha vinto il premio come miglior performer, quindi insomma abbiamo anche questo piacere. E Gemima Cano invece arriva dalla Spagna e presenta Within, anche questa opera interattiva. Lei ha voluto raccontare attraverso la realtà virtuale il processo creativo che spinge un artista a creare un'opera d'arte, quindi insomma ci mettiamo un po' dentro la psiche di un artista. E poi infine Fon, Adrien M e Claire Bell, francesi in realtà in questo caso, li abbiamo già ospitati in realtà negli anni precedenti perché loro hanno una visione completamente differente rispetto alla relazione tra danza e tecnologia. Quest'anno ci portano dentro a un progetto di realtà aumentata che però sarà disseminato in tutta la città. Quindi gli spettatori potranno girare nella città, andare a cercare questa specie di poster, questi manifesti appunto che avranno un percorso prestabilito e attraverso il loro tablet o telefono vedranno un'opera di videodanza. Quindi ritrovarsi in un contesto tipico di un'altra epoca, ritrovarsi in spazi già di per sé molto suggestivi, sia dal punto di vista dell'incontro che dal contorno culturale, veramente molto importante. Ed è molto particolare trovare queste rassegne da sempre seguite al Breakfast Club. Beh, me lo permetto, essere come cresciuti assieme, e questo mi rende, sì, particolarmente contento. Proiezioni di film in anteprima, concorsi internazionali, cortometraggi ed eventi, speciali talk con gli artisti, workshop e incontri tematici per raccontare l'evoluzione del corpo digitale interconnesso tra spazi reali e gli spazi virtuali. È strano, sentirmi parlare così, però vi assicuro che con le modalità di Zed, sì, è tutto un altro mondo. Secondo atto sarà dal 13 al 17 novembre, intanto ci godiamo il periodo più bello dell'anno, questo è l'inizio dal 3 al 7 luglio, il primo atto, per cui pienissima estate con un'anteprima mercoledì 26 giugno dalle 18, le serre dei Giardini Margherita e il Mambo, quindi per questo primo atto avremo modo di trovare sorprese, belle sorprese, e ovviamente invito anche voi, senza paura, anzi tutt'altro. Quindi non spaventatevi come non mi sono spaventato io, perché da quando c'è il Breakfast Club presento questa rassegna, anche se sono un dinosauro digitale, perché c'è una grande possibilità di imparare anche per i profani. Sì, decisamente sì, ma poi penso che la cosa bella di Zed Festival sia proprio l'idea della fruizione dell'opera d'arte. Non ci sono palcoscenici, non ci sono platei, e sono esperienze che hanno una durata che vanno tra i 10 e i 15 minuti, quindi molto semplici da vedere, leggeri in questo senso, anche se hanno un contenuto artistico molto, molto importante, molto interessante, e non a caso abbiamo scelto proprio le serre dei Giardini Margherita, proprio perché è un luogo informale, perché è un luogo leggero dove appunto ci si può incontrare e magari tra un calice e l'altro si può fare un'esperienza appunto in XR, quindi sì, assolutamente semplice e anche molto molto piacevole. Ci vedremo sicuramente alle serre, perché già di per sé è un luogo assolutamente suggestivo. Per il festival è arrivato già 6 edizioni, tra l'altro. Il festival è già arrivato alla 6ª edizione e siamo molto contenti di questo risultato, perché di fatto, sono abbastanza sincero, quando abbiamo iniziato nel 2019 si parlava di videodanza, ma effettivamente come una nicchia dell'ampia sfera, dell'ampio mare della danza contemporanea, quindi era effettivamente poco conosciuta. Invece a distanza di 6 anni il festival, insomma, non solo è cresciuto, ma è diventato un punto di riferimento sul territorio nazionale. Sono state attivate molte collaborazioni con tanti festival sia nazionali che internazionali, quindi insomma vediamo come il festival non solo sta crescendo, ma in realtà sta ancora chiedendo molto più spazio, perché le domande che crea sono molte e le soluzioni che offre sono tantissime, e quindi questo per noi è tutto territorio da esplorare. Grazie e buon festival. Ma grazie a voi, a presto. Dope, la formazione Bullfrog, e le sonorità per me danno colonna sonora un po' ai contenuti che abbiamo trovato per il Zed Festival internazionale di videodanza, sesta edizione. Musica in stile soul, se vogliamo, anche arriviamo alla Motown in questo caso, però con questi glitch, questi saltelli, questa motivo di asincronia musicale voluta, ne dà una realtà aumentata, se vogliamo, anche della narrazione musicale. Pubblicità, poi si torna in scena, eh? Dal 3 al 7 luglio, primo l'atto, l'anticipazione 26 giugno alle ore 18, serie dei Giardini Margherita, si procede poi con il programma dedicato agli incontri al Mambo. Per info www.zfestival.it, grazie al direttore artistico Mario Coccetti e grazie anche alla curatela della compagnia della Quarta. A tra poco!